Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti da Stefano Dainese. Siamo in leggero ritardo questa sera, ma può capitare. Abbiamo ancora una volta questa sera, ancora una volta un ospite dal vivo, con la regia del nostro Agostino Spolaore, naturalmente, come al solito. Abbiamo un ospite che arriva, in realtà arriva da Torino, però arriva da più lontano, arriva da Mosca, dalla Russia. Si chiama Max Dmitriev. L'ho pronunciato così. Sì, buonasera a tutti. Parla anche italiano, Max, perché appunto, come ho detto, arriva da Torino, perché si è stabilito nel nostro paese da qualche anno. Una scelta sicuramente originale, non credo ci siano molti musicisti russi che si sono spostati in Italia, ma ci racconterà lui come è successo questo, in italiano o in inglese, insomma, come preferisci. Max in Italia sta producendo della musica dopo una carriera nel suo paese piuttosto lunga, dopo chiaramente ne parleremo con lui. Ha pubblicato un extended play, che è un antipasto, diciamo un'anticipazione di un album che sta preparando in questi mesi, con una programmazione di uscita per l'autunno del 2013. E quindi questa sera ci ascolteremo alcuni estratti dal standard play intitolato A Man Out of Age, e poi lui ci presenterà, ci farà questo onore di anticipare qualche canzone che farà parte di questo nuovo album, che non so, ha già un titolo? I guess it will be the same. Avrà lo stesso titolo, Man Out of Age. Allora, per sentire un po' cosa fa Max, non aspettatevi musica russa, perché è un musicista internazionale. Oh, per carità. ci ascoltiamo appunto un brano dall'extended play, si intitola Almost. Max Dmitriev qui a Blu Radio Veneto. Nobody knows her name, they care not a snap for you. You have come from the world they didn't know. You may not be perfect, and sometimes you are playing hard. You stand and still, I know you will, just set the world on fire and feel alright. You are trying not to worry about tomorrow, almost free to play the roles you want, almost happy when it's smiling through your sorrow. But almost doesn't count, almost doesn't count, almost doesn't count. Let the road twist and turn, you sound as a bell, my friend. You have already learned that lesson well. Shiny happy day that you not face may bring you so high, so back in your eyes, you make another stop and feel alright. You are trying not to worry about tomorrow, almost free to play the roles you want, almost happy when it's smiling through your sorrow. But almost doesn't count, almost doesn't count. You are almost coming out of this shadow, you are almost ready to be found, and so almost nothing left for you to borrow. But almost doesn't count, almost doesn't count, yeah. We'll doesn't count. Almost doesn't count. Yeah. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E questo brano si intitolava Almost, come avete sentito, un brano dal respiro molto internazionale, rock, potrebbe essere un pezzo di qualche rock band inglese come gli Oasis o diciamo su quello stile lì, quindi Max si rivolge al mondo chiaramente. E tu facevi parte in Russia di una band chiamata Catherine's Favorites. Yes. E eravate un gruppo importante, mi pare di capire. How big if we was... if we say about underground, we were quite popular and we played in stadiums and big venues. Yes. We got a plenty of fans. Among the underground lovers. Ok, si è detto a livello di gruppi underground erano fra i più conosciuti, suonavano in locali molto grandi, anche negli stadi, avevano un bel seguito. For example, if we talk about Tom Waits is also underground one. Ah, ok. Sì, dice, erano più o meno al livello di cui può essere un Tom Waits. Non è una superstar, però ha un seguito anche molto affezionato, quindi i vostri fan erano molto fedeli. They were times, you know? They were. Erano bei tempi. Now I start my life anew, and I'm not afraid of starting anew. I start my life again. And a completely new life. Yes, and I quite like the way I'm looking at the world now. Sì, cioè, lui ha iniziato una nuova vita nell'Unione Europea e è molto felice di questo passo e è felice anche di come le cose si prospettano. Ecco, sicuramente è una scelta di vita difficile, perché se uno è nato in un paese... It's not difficult for me because you can't imagine where it's gonna be tomorrow. It's the life of a musician. if I got a tour in Los Angeles, I will go there in no time. It's not my job, it's my life. Ok, si dice che in realtà non è una scelta così difficile, perché la vita del musicista è fatta in questa maniera. Non sai dove sarai domani, non sai cosa ti porterà il prossimo giorno. Potrebbe essere che devi andare a suonare a Los Angeles e ci vai, perché questo non è il suo lavoro, ma è la sua vita. E passare però da un ambiente in cui si è conosciuti a un altro in cui si riparte come se fossi un musicista agli inizi, da una parte deve essere difficile, perché dove hai già un pubblico sei sicuro, fai un concerto, c'è gente che ti conosce e quindi sei sicuro che verranno. Dall'altra però forse è più emozionante, perché c'è il thrilling, il thrilling della novità. You understand that? Yeah. Is it for me it doesn't really matter where to play. I know the only thing, if you play well, if you give your emotions to the spectators, if you do your job right, anyway you will get something back. And usually the people here in Italy pay me back. Oh, good. I'm happy about to hear that. Si dice che in realtà per lui non fa differenza, perché quello che sa è che se tu suoni bene, se riesci a trasmettere al pubblico le tue emozioni, diciamo il tuo talento, la gente ti risponde, ti dà qualcosa indietro, e qui in Italia ha trovato appunto una bella accoglienza, la gente lo ha accolto bene, quindi questo nuovo inizio. And besides, I don't sing about politics, I don't think about sing about problems, I just sing about life. dice non faccio canzoni sulla politica o sui problemi, canto la vita. Sì. Sì. Allora, adesso Max ci suonerà un primo pezzo dal vivo, con naturalmente qui in studio è da solo con la chitarra acustica, poi il disco, da quel che ho capito, sarà molto più... Ma dopo ce lo spiegherà lui come sarà il disco. Intanto ci canta questa canzone che si intitola... Don't Look Down. Don't Look Down. Walking down Dallas Street, they're chasing things they don't really need. They like to see broken wings fall down in all mankind's of town. Hey, whoa, whoa, whoa. Hey, hey, hey, whoa, whoa, whoa. They win false friends via Facebook page, but they look like kids when they're at their range. They like to see broken wings fall down. Keep an eye, the sky never look down. You make the world go round. Make another try and don't look down. Yeah. You don't look down and you keep your way. When the rain someone give up one day, with a broken wing, carry your dream, dream and sing. You take a path, carry heaven high. You just keep an eye on the sky. Era Don't Look Down, un'anticipazione appunto dell'album che Max Dmitriev sta realizzando in Italia, a Torino, ma di quello parleremo dopo. Volevo parlare un attimo della Russia con te, perché è un paese che conosciamo pochissimo, soprattutto dal punto di vista musicale. Immagino che in Russia ci siano tantissimi musicisti, la gente va ai concerti, ma ci saranno delle superstar che in Russia riempiono gli stadi e che qua nessuno conosce, immagino. Tu adesso conosci molto bene anche la scena musicale italiana. Per un musicista cambia molto, nel senso, i rapporti con la casa discografica, con i promoter, con i club, sono come qua? La tua esperienza russa ti permette di lavorare nella stessa maniera, o hai dovuto ripensare il tuo lavoro? In Italia? Sì. O in Europa in generale, insomma. Ah, this is the other thing. Different, diverso. Yes. First of all, when you say, Max, your music is so particular, I can say on the contrary, No, it's your market is particular. Sì, cioè quando qualcuno but, dice Max, la tua musica è così yeah. particolare, così strana, io posso rispondergli no, è il vostro mercato che lo no, è. The agents and the management is always the same all around the world. Gli agenti e i manager sono gli stessi in tutto il mondo. Yes, depends on the crew, depends on team. Just one advice, you just work with successful people, with smiling successful people who got a good background and everything will be okay. Se dice alla fine se lavori con la gente giusta, la gente sorridente, hai detto smiling for people. For example, now I work with one agency that is called, it's possible to say yes. the name, Top One Communication. With the best Italian promoter, I guess, Stefania Shintu. I like working with such people. Kind of people, with such people, yeah. Se diceva appunto che se lavori con la gente giusta le cose Everything vanno bene. Depends on people. Dipende tutto dalle persone. Adesso lavoro con questa agenzia Stefania. Italiana. Stefania Schinto, mi aggiungo subito, scusami sì. se mi intrometto Stefano, per ringraziare Stefania Schinto della Top One Communication che ci ha permesso di avere Max Dimitriev qui in studio. Un caro saluto, noi collaboriamo spesso con lei, è una bravissima persona, e insomma, grazie di cuore a te Stefania. E appunto Max ha detto che quando lavori con queste persone le cose sono più facili. Nella band tu eri il leader? Era... Yeah. Cantante e le canzoni le scrivevi yeah, tutte I just composed the songs and I was a frontman, let's say. We worked together over arrangements. So and now I keep contacts with Tom, my guitarist Tom Duckling. He also takes place in this new album. And we are expecting him to arrive here in Italy to record for mixing maybe. Si è detto lui era il frontman della band, era quello che scriveva le canzoni, è ancora in rapporti we are still in relationships yeah of with course, all the people of the band con tutti ancora 18 years together 18. We're like a family now. Si è detto allora sono stati insieme 18 music, anni music quindi. Has no borders and limits si, music si. Is everywhere music in our souls. Dice, and no, let the music heal your soul. Ha detto appunto 18 anni insieme, non si è più una band, si è una famiglia e la musica ti tiene insieme, la musica è dentro le tue anime, insomma, quindi è ancora in contatto, è uno dei componenti della band, verrà in Italia per partecipare all'album. Che strumento suona lui? He's one of the best guitarists in the world. Gran chitarrista. Con me il suo nome, scusa perché non l'ho. Tom Duckling. Tom Duckling, ma è un nome russo? Sì. It's a strange nick. But he is Tom Duckling, is an artistic name. Ah, è un nome artistico, no? Perché sure. Sai, nella nostra ignoranza, noi pensiamo sempre che tutti i russi finiscano in. We don't call Sting Gordon Sumner. Sì, anche Sting, nessuno lo chiama Gordon Sumner, quindi è normale appunto che abbiano un nome d'arte. Ma i dischi della band sono ancora distribuiti? Esistono ancora nei negozi? Yeah, sure. In Russia, naturalmente. Yeah, you can pre-order it everywhere. No, si possono, beh, probabilmente si troveranno su internet. Most of them were sold out. But now we are expecting plenty of major shops here in Europe to be distributed. Ah, molti. The recent four albums. Quanti, i quattro più recenti. Si è detto che i dischi in buona parte sono sold out, sono stati esauriti, però ne ristamperanno i quattro più recenti con distribuzione europea. Poi, or in my official website. O nel suo sito. The simplest way. Giustamente, facciamo un po' di pubblicità. Il sito che si chiama maxdmitriev.com, giusto? Sì. Ecco, Dmitriev è scritto... DM I3F con due F finali. Se fate fatica a scriverlo, lo trovate sul nostro sito bluradioveneto.it, quindi non vi sbagliate, perché mi ha spiegato appunto c'è questa DM che si pronuncia in maniera un po' bizzarra per noi, perché la I c'è ma non c'è, è un po' mimetica, Dmitriev praticamente. Ho fatto esercizio. Allora, il pezzo che ci ascoltiamo adesso, sempre tratto dall'Extended Play, è quello che dà il titolo, che darà il titolo anche all'album, A Man Out of Age, un uomo fuori. This track is very special for me because here took place Jivan Gasparyan. He's the winner of Grammy and the Golden Globe for the film Gladiator with Carl Zimmer. And he's a musician. He is 84 now. Still playing. Yeah, still playing and roaming through the world. And he is the unique person who played Duduk. I wish you the same, to be 84. Yeah, it was an honor for me to play, to work with him. And by the way, with the orchestra, magnificent orchestra. You can hear it on this song now. Devo tradurre questo. In questa canzone appare Jivan Gasparyan, che suona uno strumento che si chiama Duduk, uno strumento tradizionale armeno. E questo personaggio che all'età di 84 anni continua non so, a suonare e andare in tournée, tanto di cappello e complimenti anche per il fisico, ha collaborato con Brian Eno e Peter Gabriel, Brian May oltre ad altri, e ha composto la colonna sonora del Gladiatore, con il quale ha vinto il Grammy e il Golden Globe Award, quindi un autentico monumento. Poi posso immaginare insomma il piacere, che Max appunto l'ha detto, l'emozione di avere un musicista che porta lui la tradizione, non solo la suona, ma la è, perché alla sua età ha dentro di sé un patrimonio musicale irripetibile. We just thought about the song. The title is A Man Out of Age, and when I hear this the notes he played, I understood everything. I wanted to listen to hear. There is something in these notes. They are simple. There is wisdom. The music has no, there's no age, has no borders, and that's it. Si è detto praticamente, suonando nel pezzo, ha dato significato alla canzone, che si intitola Un uomo fuori dall'epoca, dal tempo. E le note che lui suona, ha detto che sono apparentemente semplici, però c'è dentro una grande saggezza. Ha usato questa parola wisdom, che è raramente viene usata con la musica, no? Perché la musica molte volte invece, soprattutto la musica pop rock, si pensa più all'irruenza, alla voglia di fare anche le cose magari in fretta. Invece quest'uomo ha portato nella canzone la sua saggezza musicale, e non solo musicale, anche umana. Yeah. Quindi when you get older, you start playing less notes. Dice, quando diventi vecchio, impari a suonare meno note, però suoni quelle giuste. Allora ci ascoltiamo questa bellissima A Man Out of Age. Unless I am awake, then now for sure I can't reflect or dream up that nightmare. The brakes of train refuse to act, it doesn't stop anywhere. If I knew how star, everything gets known one day. Let someone come and tear off my page the story of a man, the story of a man. to love and hate and to rate every step, to run away to secret place, but there he finds himself in trap. So there's no place throughout the world you will not take a breath. Well, no one makes you say a word unless you find and take your path. If I knew how I could fall like a star, everything gets known one day. Let someone come and tell of my pain, the story of a man, the story of a man out of vain. The story of a man. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rock Wave Live, siamo qui in studio con Max Dmitriev. Abbiamo ascoltato questo brano intitolato A Man Out of Age. La prima cosa che mi è venuta da notare quando ho ascoltato l'extended play, avete sentito la prima canzone Almost, che è un drive molto rock and roll, chitarre distorte, eccetera. Questo brano, suoni completamente diversi. Costruzione del pezzo molto diversa. Tu sei uno che ama molto cambiare, fare cose molto diverse una dall'altra. No, this is the typical feature. This is the hook of the upcoming album. I like to show all my composer's potential in this artwork. That's why I write songs in different music styles. But it's not the task. It was not the task to write one song in pop, another in blues, in alternative. Yeah, it's succede. It's riesco così. So, but this is a hook. I cannot compose equal songs. All my life I've been experimenting. Okay. Si dice tutta la vita ho fatto esperimenti, e il look del disco, che è difficile da tradurre in italiano, il gancio in realtà non è la traduzione esatta, ma comunque il motivo per cui l'album dovrebbe colpire la gente è che metterà in evidenza tutte le sue potenzialità compositive in vari generi, che però non è una cosa che è stata fatta a tavolino. Non è che si sia seduto e abbia detto ok, nel disco ci deve essere un pezzo così e un altro, semplicemente queste sono le canzoni che gli viene spontaneo creare. Quindi i tuoi ascolti musicali sono molto vari, immagino. No, there are a lot of things in my head, but I try not to listen to music because I've had enough. I'm full of my own one in my head. Adesso non ascolta più musica. No, I'm much concentrated in my work. I had no time to listen to other projects. I must move forward. That's what it's why. Do you play all day long? All night, all day. There is only one music in my head. Mine. Si dice che in realtà non ha tempo per ascoltare altra musica perché giorno e notte è concentrato al 100% su quello che fa e quindi non vuole neanche, diciamo, distrazioni, concentrazione assoluta. I have listened a lot in my life. Sì, in passato ho ascoltato moltissimo, naturalmente. And I don't build a bicycle anew. I don't build a bicycle again. Because it just exists. Ah, ok. Sì, non mi metto a costruire una bicicletta perché già qualcun altro l'ha fatto prima. I just use the experience of the other people, and I know I got this knowledge to create the new songs, particular and a bit different than the others. Dice ho acquistato, naturalmente ho preso vantaggio dell'esperienza degli altri e uso questa conoscenza per creare qualcosa di un po' diverso e personale. E molti musicisti italiani cantano in inglese e io chiedo sempre a loro come mai preferiscono l'inglese all'italiano. La maggior parte delle volte la risposta è che sono cresciuti ascoltando musica inglese e quindi nella loro testa l'inglese è la lingua con cui si canta. È lo stesso per te o avete... I've never tried to sing Russian. Never tried. Non ha mai provato a cantare in russo. Beh, da ragazzino, quando ero piccolo, ascoltavi musica straniera. Let's say I was born to sing English. Sono nato per cantare in inglese, anche se in Russia a qualcuno questo non piace. È un problema suo. Cazzo suo. Ok, sì, perché mi diceva che adesso in Russia stanno spingendo molto i musicisti che cantano in russo. Per me è un segno di chiusura mentale al mondo, insomma. Anche perché in Italia abbiamo tanti musicisti che cantano in inglese, ma questo non ha mai impedito a chi vuole cantare in italiano di farlo. Le due cose non si eliminano a vicenda. It's a private case. Esatto, è una cosa privata, dovrebbe esserlo almeno. Bene. The next song is called Barking at the Moon. La prossima canzone si intitola Barking at the Moon, che vuol dire abbaiando alla luna. Past life and all the day breaks. soon. Another car changed and I wonder, barking at the moon, barking at the moon. Oh! Barking at the Moon, questo brano che è un po' un blues. Yeah, it was written 4 or 5 years ago. È stato scritto 4 o 5 anni fa. It was included in the album Unplugged. Era nell'album Unplugged. È un po' un blues, però la tua musica mi sembra più britannica, più inglese che americana. Let the critics decide. Ah, lasciamo decidere ai critici. Questa è una mia impressione. Te l'avrà detto qualcun altro, forse? Maybe. British sound, it's not that. Sì, c'era anche la voce che a volte ricorda Rod Stewart, no? Che, per cui lui è molto britannico, anzi scozzese, scusate. In each country, in every country, they call me Sting. Sting? Compared me with plenty of musicians. Sì, dice che in ogni paese lo paragonano ad altri musicisti, ad esempio a Sting. Però appunto io anche nelle canzoni del disco, come arrangiamenti, ho sentito più un'influenza inglese che americana. Poi naturalmente sono... You must become famous not to be compared with. Devi essere famoso per non essere paragonato. Ma non è mica vero, perché Jamiroquai è famosissimo, però è identico a Stevie Wonder, cioè. Non è che ti salvi. È chiaro, nessuno... The thing is that You got hook or you have no. Sì, la cosa è che o prendi, fai presa, o non la fai, questo è quello che conta. Ma in effetti, ma ormai nel 2013... Have you got a typical feature? Sì, se hai una tua caratteristica personale o no, ma questo è chiaro. Poi diciamo che oggi come oggi gli unici che non vengono paragonati ad altri è perché hanno 70 anni, i Rolling Stones o Paul McCartney, ma tutti gli altri, insomma, è chiaro. The older the better. più vecchi sono, meglio è. No, è chiaro che nessuno può pensare di essere unico e diverso da tutti gli altri, perché insomma viviamo in un mondo in cui la musica ci circonda. L'importante è, appunto, come ha detto Max, colpire l'attenzione della gente, che può essere con un tono vocale particolare. In effetti la tua voce è piuttosto originale, è difficile, ricorda un po' Rod Stewart, perché è un po' rocca, ma insomma non è certo uguale, è piuttosto riconoscibile, direi, anzi. Quindi questo è sicuramente un grosso vantaggio. Poi noto che sei anche molto attento alle parti di chitarra. Hai qualche chitarrista che ami particolarmente? No. No? Strano. No, and just the guitarist of the 70s, the British rock, maybe. British rock degli anni 70. A proposito, qui sei con la chitarra acustica, tu suoni anche la chitarra elettrica normalmente? No. Ah, perché nella band c'era l'altro bravissimo. Yeah, sure. E quindi giustamente ognuno aveva la sua parte da coprire. Fra l'altro, ecco, la band, mi diceva, si chiamavano Catherine's Favorites, con un riferimento alla regina Caterina II, che insomma è un personaggio che ha fatto la storia della Russia. A proposito, mi è venuta in mente una cosa un po', vabbè, una domanda un po' stupida, ma l'Italia non ti sembra tanto piccola? Perché piccola proprio, perché prima Max mi ha detto che loro sono di Ekaterinburg, che è a quanto è lontana da Mosca? 2000 km? 2000 km? 12-13 mila chilometri tutta la Russia. Sì, no, ma Ekaterinburg con Mosca? 2000 km, come da Padova, da Padova andare in Portogallo. Per cui siete abituati a vivere in uno spazio diverso, secondo noi, perché per noi adesso voi siete arrivati, tu sei arrivato da Torino, per noi Torino è una città abbastanza lontana. No, figurati. Ecco, vedi, quello è proprio quello che intendevo, cioè. For me it doesn't really matter part of all London, if I need to be there I will be there, I take a plane and go to London. Yes, of course. The territory and the length doesn't really matter if you need to be there. Sì, gli spazi non contano se devi essere in un posto che sia Londra o Padova, che appunto per il nostro punto di vista è molto diverso, ecco. Mi parlava anche di questo viaggio di 2 settimane in treno sulla Transiberiana. And you made it? Not the whole way. Halfway, yeah. Si ha fatto metà della Transiberiana, sono 7 giorni di treno, che è un'esperienza. Avevi la chitarra? No. Peccato, perché... Allora ci ascoltiamo un altro pezzo dall'Extended Play di Max, si intitola This World Is Not My Home. È un titolo un po', forse un po' più pessimista, questo, o vuol dire qualcos'altro? No. A man is constantly changing. Ah, ok. Un uomo cambia continuamente. Yeah, and one day you may wake up and determine that this is the person who I don't want to live with and go ahead. One day you may wake up and decide that's the city I like to live in. One day you wake up and capisce se il mondo cambia. Se dice, il titolo della canzone è This World Is Not My Home, questo mondo non è la mia casa. Ha detto che può capitare che un uomo si svegli la mattina e decida che la sua vita deve cambiare, che deve andare in un altro posto, deve vivere con altre persone, e appunto la canzone parla di questo. It's just the situation, it's the song about the situation when one man wake up and suddenly decide that Something has to change. Si dice, la canzone proprio parla di una situazione in cui uno si trova nel momento preciso in cui ha deciso che le cose, qualche cosa almeno, deve cambiare. That my heart is growing cold. Life changes my mind, I change my mind for life. There will be no sounds to shake the world. There must be some other way to get myself. Feels a little bit sad that I let it go. I know that longest day must have an end. Oh. Not my tears write this song. Now this world is not my home. Not my home. I wish that I could remain the same. When I see my life in someone else's eyes, a second ago I only came and went through the open door of stormy skies. I feel that I could break away and I spread my wings. I've no regrets and nothing holds me in. Many places to roam. Now this world is not my home. Now I send my soul through time and space. I find this world a real mess. You may not know my life. sand glass. Turning the glass, I let the sand run through again. Don't cry for me, I came and went. Don't cry for me, I came and went. Knows me far and I don't mind. Whatever it takes, let the wind decide. And so it will be, and let it ride. Till I feel alright, till all the seas go dry. To roam. Now this world is not my home, not my home, not my Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, abbiamo ascoltato This World Is Not My Home da Max Dmitriev. E, vi ricordo che questi brani che stiamo ascoltando dell'Extended Play faranno poi parte dell'album a cui sta ancora lavorando. È un disco che ha una costruzione molto lunga, perché anche la partecipazione di un'orchestra che si... adesso stavo cercando... Labirinto Strings Orchestra. Labirinto Strings Orchestra. E, quando tu hai deciso di trasferirti in Italia, a Torino, sapevi già che qui avresti trovato questo studio, questi musicisti con cui potevi lavorare, o è stata poi una fortuna... successiva a trovarli. It was parallelly made, this choice. Well, on the other hand, I got 3 acoustic solo tour in Italy, and I traveled all around the country from north to south for 3 times, and I saw all the parts, all distant parts of Italy, and finally I made up my mind to stay in Turin. Besides, there is one of the best European studio located there in Turin. That's why I'm in Turin at the moment, not permanently, who knows for sure. Si è detto, è stata una decisione parallela. Lui conosceva già l'Italia perché ha fatto 3 tour italiani solo acustico, come lo stiamo sentendo questa sera in radio, e ha potuto quindi vedere molte situazioni dall'Italia, e ha deciso di trasferirsi a Torino perché gli piaceva il posto, e perché aveva anche la possibilità di lavorare in questo che è uno dei migliori studi europei, in modo tale da fare un cambiamento di vita e allo stesso tempo avere una base dove lavorare per proseguire con questo progetto. Questo è il tuo primo disco solista? No, there were a lot of works. For example, I wrote musical by myself and produced it in Russia for the musical. For the setup. Then I got one solo project. Yeah, they were. Se ha fatto già delle cose da solo, ad esempio ha scritto dei musical in Russia, e poi un progetto solista. Ah, anche due. Ma musical American style, come quelli degli americani, nel senso con dancing, ballerini, teatro. Ma lì c'era, tu lavoravi su una storia, hai scritto le canzoni su una storia che era stata scritta da altri? No, it was original. Musical. Ah, un musical scritto completamente da lui. Me. Da te. E questo per il mercato russo? Sì. Quindi, però era in inglese, anche questo? No, in russo. Ah, quindi hai scritto, però tu non cantavi niente, quindi eri solo... Interessante come cosa, ma è un lavoro molto diverso da fare un disco tuo. Let's not talk about. Non vuole parlare. Hai fatto anche colonne sonore per film per caso? Yeah, I also worked with cinema directors. Allora, from time to time. Allora con dei direttori, sì, con dei registi alcune volte. E sono film che sono arrivati anche in Europa o solo per il mercato russo? No, I worked with Alexei Fedorchenko, who was in jury in Venice Film Festival last year. And his film won and I wrote the final song for his film about 6 years ago. Ha scritto la canzone che chiudeva il film di questo regista che non so dire il nome. Fedorchenko, sì, l'ho sentito nominare, è stato anche in giuria, nella giuria al festival qua di Venezia, è un regista di caratura internazionale, quindi sono cose che comunque fanno un bel curriculum. Vediamo, sto guardando gli orari, direi che è meglio che ci canti qualcosa adesso, se no parliamo troppo. Sì, ok. The track is called Fly By Night Love. Fly By Night Love. Succede. L'amore su un volo notturno, praticamente. Succede a te, è successo? No. Does your smile cost? Name your own price and I'll pay. Please you let me do what I like most. My brakes refuse to act, now I say. You say that I have been dreaming away my life, looking for a fly-by-night love, fly-by-night love. Don't be a drama queen, staying but one remove from a stairway leading above, my love, my love, machine. Dots, it's so much noise. Ain't we tired of people around? My high expectations and your choice. A quiet life he cannot be found. You say that I have been dreaming away my life, looking for a fly by night love, fly by night love. Don't be a drama queen, staying but one remove from a stairway leading above, my love, my love, vanishing. Canzone molto spensierata. It's like a tricky. It's like tricky one. A tricky one, una canzone un po' tricky, ingannevole, impegnativa, diciamo, da suonare. A me ha ricordato un po' la musica brasiliana questa canzone. It's just a rumba style. Posso dire che uno non si aspetta da un russo di fare musica con influenze brasiliane. I'm not Russian by mentality, you know. Sei. Even when I lived in Russia, I was like an alien for them. Fish out of water. Si dice che in realtà lui come mentalità non when è they russa, saw me russa. When they saw me they didn't expect to know that I was Russian. Sì, non si aspettava, la gente non credeva neanche che fosse russo, lui era, gli sembrava di essere un alieno nel suo paese. Cioè, a dire, noi di solito i russi li pensiamo biondi con gli occhi azzurri, tu potresti essere italiano anche, no. Diciamo, se uno ti vede per strada, non c'è nessuna ragione per pensare che sia uno straniero. Parliamo ancora del disco, è una cosa più importante. La presenza degli archi, una vera orchestra, non sintetizzatori, è una scelta artistica direi significativa, importante. E l'avevi già in mente? Cioè tu volevi che nel disco ci fosse l'orchestra o li hai conosciuti e hai deciso di utilizzarli? You understand that? Yeah, it came from, it always comes from the idea of the song. If I need orchestra, they look for an orchestra. Ah, ok. Cioè, era un'idea che lui aveva della canzone, doveva esserci un'orchestra, e sono andati a cercarla e ne ha trovata una. And molto... besides, I'm an analog person for 100%. I'm not digital one, and I hate all those all that stuff. Si dice sono una persona analogica al 100%, non sopporto. Nothing compares with the strings, you know. Sì, non c'è niente che può suonare come dei veri archi. E in effetti, sì, questo non sei il primo musicista che me lo dice. C'è una profondità di suono che. It's not the question of image, it's the question of idea, it's the question of breath. Si dice non è una questione di immagine, ma dell'idea del respiro che dà l'orchestra. Quindi ci sarà anche molta attenzione alla produzione di questo disco, poi speriamo che la gente lo ascolti sul CD e non sugli MP3, che a quel punto distinguere se è una vera orchestra o se è un sintetizzatore diventa difficile. I musicisti stanno mesi in studio per fare tutti i suoni perfetti e poi c'è il rischio che molti non riescano ad apprezzare questa differenza. Synthesizers, it's not bad, but it's just another for the another type of music. Dice, non è che i sintetizzatori siano cattivi in assoluto, semplicemente vanno bene per un altro genere di musica. Okay. è bello sentire un musicista che viene da un altro paese che parla in maniera così positiva delle professionalità che ci sono in Italia, perché molte volte in Italia siamo esterofili, no? Allora è una vecchia storia questa, tutto quello che arriva da fuori è meglio. Poi uno che è stato che arriva dalla Russia ma che ha girato il mondo dice che questo studio a Torino è a livelli internazionali. All depends on the crew. Dipende tutto dalla gente, chiaramente, perché gli strumenti li trovi dappertutto. Tu sei stato anche in America, vero? The half of the tracks were recorded in Los Angeles. Metà delle tracce sono state registrate a Los Angeles. Ma hai fatto anche tournée in America? Not yet. We are expecting. Non ancora. We are expecting the invites. Ok, il tuo accento parli con accento americano, secondo me. From time to time. Ha detto qualche volta. Pensavo che when I come to London I try to speak like this. Sì, ha detto quando vado a Londra ho cercato di fare l'accento inglese. That is hard. Però è molto molto difficile, molto impegnativo. Allora vi ricordo che siete sintonizzati su Blu Radio Veneto, facciamolo presente, questa è Rockwave Live, abbiamo con noi in studio Max Dmitriev che è qui per presentarci il suo album Man Out of Age che uscirà nell'autunno del 2013. C'è una data precisa, release date? No, maybe it will be the 20th of October. Probabilmente intorno al 20 ottobre. E adesso il brano che ci ascoltiamo, che fa parte dell'extended play che anticipa appunto l'album, si intitola I Beg of You. Stand for a moment and look behind. Have not been able to turn a sigh into a smile. Maybe we were afraid that perfect morning would run away. Better things we're gonna say goodbye to yesterday. We wanted to travel light, but memories are now. Must go full sail. We all didn't want to wait and paint you without shame. The shortest way not to fail. Time ran fast and after all, we have run slack into a wall. In every life, a little rain must fall. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Questa era I Beg of You, un pezzo molto molto radiofonico, molto orecchiabile, forse il pezzo più pop di questo Extended Play. I look forward to playing it in the stadium. Non vedo l'ora di suonarla in uno stadio per un grande pubblico. In effetti è uno di quei pezzi da cantare anche in coro, insomma, è molto, prende subito già dal primo ascolto, quindi diciamo che una volta sarebbe stato il 45 giri il singolo. Adesso vabbè, non ci sono più queste cose. E in questo brano alle tastiere c'era Danilo Ballo, che collabora con i Pooh, e nel disco poi partecipa anche Fabio Gurian, che è l'arrangiatore e direttore d'orchestra, con gente come Fiorella Mannoia, il Subsonica, i Baustelle, quindi professionisti molto molto capaci. E tu a queste persone lasci come lavori, con ad esempio con il direttore d'orchestra? Gli dai una direttiva così generale e poi lasci che sure, faccia? I write the main theme and they will work together about the parts. Then we got rehearsals with the orchestra and I must explain the point of view, because the musical schools are different, and to make the orchestra play appoggiato, ad esempio. Cioè, dice appunto che il direttore d'orchestra serve a trasmettere quella che è la sua idea, perché lui scrive appunto il tema principale, e il direttore serve per comunicare con gli orchestrali, che vengono da una scuola musicale diversa, quindi hanno un linguaggio, diciamo, diverso. Ma aver scritto dei musical ti ha aiutato a... No, musical I produced by myself, and all the parts, orchestral parts, I wrote and directed the orchestra by myself. I also got an experience in directing. I got a good musical education, hallelujah. In conservatorio, conservatorio. Yeah. Quindi allora lui, Max, è andato al conservatorio, e i musical che ha fatto in Russia, appunto, li ha fatti completamente da solo, scrivendo le parti e dirigendo l'orchestra. Quindi siamo di fronte a un personaggio veramente eclettico, uno che riesce a fare cose molto, but musical molto diverse. Is a different planet. Il musical è un pianeta differente, sì. No. E anche perché poi il disco si fa. Il disco è una cosa che viene fatta, è fisica, una volta che è fatta. Invece il musical è come fare teatro, cioè tutte le sere. It happened right now. Esatto, succede in quel momento. And there are no equal performance. Sì, non ce ne sono due uguali. E tomorrow it will be the other show. Ma e quando il musical era a teatro, tu eri lì a dirigere tutte le sere? No, cioè, I had no opportunity to stay in one city for a long time. Dice che non poteva stare in una stessa città per tanto tempo, perché penso appunto alle difficoltà del fatto anche che magari solo l'anteprima, dovevi dare il tuo approval, la tua approvazione, e dopo si arrangiavano, sì, diciamo, e non sono stati registrati poi questi musical, non esistono anche in versione it's a property of the theater. I don't know. È proprietà del teatro, quindi. I was arranger in the situation. Sì, era stato, diciamo, incaricato di questo lavoro. I wrote this show for the schedule, for the season. Ha scritto lo spettacolo per la stagione. Il repertorio. Interessante, perché sono veramente pochi musicisti che fanno. Una rock band e poi fanno anche queste cose, cioè sono mondi apparentemente molto diversi. Poi nel tuo disco immagino che tutte queste esperienze vanno a fondersi insieme, quando suoni acustico, quando fai un musical, quando suoni con una band. È per quello che il disco poi è così vario. When I begin working over the new song, I can imagine the final stop to which sì, dice, quando comincio a lavorare delle canzoni non riesco nemmeno a immaginarmi il passo finale come verranno fuori. I just know from the very beginning the things that I mustn't do. Fin dall'inizio so le cose che non devo fare. But it depends on experience. Sorry. quello dipende dall'esperienza. Sono never do the same mistake again. Si dice per non rifare lo stesso errore un'altra volta. E adesso ci canta un'altra canzone. Yeah, it will be Anteprima. Anteprima, benissimo. Però il titolo non è Anteprima, eh? The title is Some Angels Don't Have Wings. Some angels don't have wings. Alcuni angeli non hanno le ali. Sì. Far beyond the desert road, see the young man jumping off his train, looking for a place where hope can still sustain. She's there to take him by the hand, make him breathe and lift him to his feet. She seems to know that hope is all he needs. All night, all day, she follows right behind me, through all the lies and sad goodbyes. She's always meant to be. Soulmate, I follow you 'cause I believe some angels don't have wings. Yeah. She said you have one life to live, they will never get you back the same. All the things I have to do, I do today. Who would I be? She weren't strong enough to challenge my fears, to make me feel I heal my broken wings. All night, all day, she follows right behind me, through all the lies and sad goodbyes. She's always meant to be. Soulmate, I follow you 'cause I believe some angels don't have wings. Some angels don't have wings. La la la la la la la la la la la la. Abbiamo ascoltato questa Some Angels Don't Have Wings, è appunto un'anteprima, è un brano che sarà nell'album, immagino. E abbiamo ancora qualche minuto insieme a Max Dmitriev qui nei nostri studi. Lui ci lascerà con un'ultima canzone dal vivo, ma prima ascolteremo un brano da un piccolo CD di soli tre pezzi, che però ha un'etichetta che ci ha un po' colpito, perché c'è il simbolo degli Abbey Road Studios impresso sopra, che insomma uno di quei posti che fanno parte, diciamo, del nostro immaginario, al di là del titolo dell'album, dell'ultimo album dei Beatles. Ci hanno inciso tutti i grandi musicisti, insomma, e anche Max è andato in questi studi e ha realizzato questo standard play, che però non è stato pubblicato ufficialmente, se ho ben capito. It will be on sale in the days to come. Ah, prima o poi verrà messo in vendita, ok. Quindi, e sono solo tre canzoni, però. Yeah, in a couple of weeks it will be on sale on my official website first, and then we open the access on iTunes. Ok, quindi nel giro di un paio di settimane sarà in vendita sul suo sito, nello store del sito personale, e poi sarà anche l'immancabile iTunes. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Very Many Things. Vuoi dire qualcosa o l'ascoltiamo sorpresa? No, it's just a wonderful horn section took place. C'è una grande sezione fiati. And it was the last artwork of Catherine's Favorites. Ah, è stata l'ultima incisione, diciamo, con la sua band, i Catherine's Favorites. Quindi and then I started my solo career. E dopo ha cominciato la sua carriera solista, quindi è il canto del cigno della sua band, quindi ha un valore particolare anche per questo. I'm working on drawing a straight line, and I'll draw until I get one right, but somehow I do go on through days and emptiness. No more use to go by the back ways. I would like to get through my green days, and I simply make the way from point A to point B. Very many doubts and too much gain. Very many clouds, but there is no rain. Every day my new life begins. Within. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Very Many Things, ballavano tutti in studio agli Abbey Road. They were all dancing. I guess everybody was working, not dancing. Stavano tutti lavorando, non ballando. Ma we exactly no. Loro no. È un pezzo quasi rhythm and blues questo. Questa ritmica così saltellante, diciamo. Oh, it's a typical song for the times of Catherine's Favorites. Ah, è una canzone classica di quello che faceva con la band. When you play on the stadium, you must have drive. Ah, sì. Dici, quando suoni in uno stadio, appunto in ambienti grandi, devi avere il drive, devi avere la spinta, insomma, per saltare un po'. L'ho messo sotto fondo, non ti preoccupare. Ah. Agostino che fa le sue cose. Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento con Max Dmitriev, che è venuto a trovarci da Torino, uno dei pochi che vengono in Italia, mentre molti italiani scappano all'estero, però appunto lui ha trovato in Italia l'ambiente giusto, a Torino per essere precisi, l'ambiente giusto per lavorare a questo suo disco. E il disco, hai detto, sarà pronto in autunno, quindi fra qualche mese. Ma da quanto tempo stai lavorando a questo album? Un lavoro, mi pare, molto lungo. It depends. We are expecting two more duets with the stars, with celebrities, and it take time. Ah, si è detto che managers kill music, you know, and it takes much time to come to a conclusion. You cannot tell the names, of course. Yeah, I cannot. Okay, okay. At the moment, no. You will see everything. Dice, stanno anche aspettando che si chiudano, diciamo, gli accordi per avere dei duetti con delle star. Ma quello che io avevo chiesto è quando. One year. Un anno di tempo di lavoro per il disco. In effetti si sente, perché è un disco completo, ricco, e quindi c'è un tantissimo lavoro dietro. Complimenti. Grazie. E aspettiamo di sentire naturalmente l'opera finita, che naturalmente trasmetteremo. E lo vogliamo qui di nuovo, comunque, con il disco intero. Max. Sì. Grazie a voi, è stato veramente piacere. Ti aspettiamo quindi col disco nuovo. È che abbiamo poco posto, perché se no poteva venire con l'orchestra. Perché sarà... if you invite me again, I'll be more than happy. You have an open invitation. Naturalmente aspettiamo di riaverlo nostro ospite non appena il disco sarà pronto e disponibile. Vi ricordo il suo sito internet, maxdimitriev.com. E vi ricordo che, come tutti i nostri live, questa trasmissione sarà disponibile in podcast nel giro di qualche giorno sul nostro sito www.bluradioveneto.it. E con questo si sta per chiudere questo appuntamento con Rockwave Live. Si chiuderà con un'altra canzone che Max ci regala per augurare a tutti la buonanotte. Io ringrazio gli ascoltatori per il tempo che ci hanno riservato, ma ringrazio soprattutto Max per essere venuto a dividere la sua musica con noi. È stato molto molto piacevole e divertente. Grazie a lei, buonasera a tutti. E io, se mi permettete, volevo ringraziare ancora una volta Stefania Schinto del Top One Communication, e anche Kat, che è venuta a trovarci anche lei stasera con te. Va bene, Max? Sì, certo. Ecco. Grazie. Bene, con che canzone ci saluti? It's also anteprima. Make it mine. Make it mine. Con questo vi auguriamo la buonanotte, Max Dmitriev, e grazie a tutti. Every time when someone heard me, every time I fell low down, every time you smiling not a way of different life. I dream, I wait, I try. We're all under the same sky. You have dreams and so do I. Baby, riddle me why. you get to open every day and not break down, even if you feel your time is over. Make the wheels go round. Maybe time is not a coin of your life, the only coin you have, only you can find out. Span. Baby, riddle me why time blows my hopes sky high. When my dream is over, make it mine, make it mine. Tell me all in good time that everything will be fine. My dream is over.